Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Consapevolezza. Impariamo a volerci bene qui su Radio Big World. Nella puntata di oggi vi vorrei parlare di una cosa molto semplice, ma che fa stare bene tante persone: la musica. Sapete che la musica è considerata una terapia, ma la cosa di cui vorrei parlarvi oggi è una cosa un po' particolare, che tanti di noi hanno provato se amano la musica, e cioè la pelle d'oca, i brividi quando ascoltiamo la musica. E ve lo voglio dire perché, come l'altro giorno vi raccontavo della mia esperienza all'omeopata, ero in macchina. Io viaggio spesso in macchina perché col lavoro che faccio mi capita spesso di spostarmi e fare dei domiciliari, e stavo ascoltando una canzone che mi piace molto, e soprappensiero in mezzo al traffico mi sono ritrovata con la pelle d'oca. Un paio di giorni dopo invece ero a casa e stavo guardando la televisione e stavano passando un estratto di un concerto di un artista che sì, ho ascoltato, ma non è che mi faccia impazzire. Però stranamente, nell'emozione di sentire una canzone dal vivo cantata molto bene, mi sono ritrovata di nuovo con la pelle d'oca. Allora ho detto: ma va bene che la musica è terapia, e secondo me è uno strumento veramente valido per abbassare lo stress, rilassarsi, dare benessere. Tra l'altro c'è uno studio che dice che ascoltare musiche tristi la mattina appena svegli dia alla persona la carica e il buon umore per affrontare la giornata. La musica dal vivo naturalmente aiuta le persone a stare bene, a godersi delle ore per se stesso, ma mi sono chiesta: ma perché proviamo una cosa che in realtà la pelle d'oca istintivamente viene usata per altre cose? E più che altro, che cos'è la pelle d'oca? È un meccanismo che probabilmente ai nostri antenati serviva per segnalare altro, un pericolo. La cosiddetta pelle d'oca è un'improvvisa scarica di brividi avvertita su tutto il nostro corpo, ma visibile anche a occhio nudo, per esempio grazie all'allungamento dei peli sulle braccia. È un fenomeno piuttosto comune, avviene di solito in corrispondenza di stimoli esterni, come una folata di aria fredda oppure un evento particolarmente coinvolgente dal punto di vista emotivo. La prima è un residuo di quando avevamo i peli più folti, quindi facevamo come i cani che rizzavamo la cresta. La seconda invece è causata da una scarica di dopamina. Molte persone, quindi fra la metà e i 2/3 di noi, avvertono una scarica di brividi quando ascoltano una canzone particolarmente coinvolgente. Un recente studio infatti ha provato a spiegare perché alcune persone siano più inclini ad altre a provare questo tipo di brividi, e se questo possa essere causato dalla loro personalità, anche se finora gli studi su quest'ultimo sono ancora agli inizi. Cosa sono i brividi per iniziare? Mitchell Colwer della Utah State University negli Stati Uniti è uno dei due coautori dello studio più recente sul rapporto tra i brividi e la musica. Spiega che la pelle d'oca in generale è innescata da stimoli esterni di natura molto diversa. Un tempo era probabilmente una conseguenza dei cambiamenti di temperatura esterna, la pelle si raggrinzisce, i peli si allungano per ridurre l'espressione di calore, più o meno come succede a diversi animali. Ora che la nostra pelle è coperta da pochissimi peli, se non diciamo nessuno, che forse più tatuaggi che peli, questo meccanismo di conservazione del calore è diventato abbastanza obsoleto. Colver però ha spiegato che la struttura psicologica dei brividi è rimasta e può aver ricevuto un nuovo incarico di procedura di reazione di fronte a stimoli emotivi. Sul Guardian, il giornalista David Shariat Madri ha spiegato che diverse ricerche hanno rilevato un'intensità attiva del nucleus accumbens, un sistema di neuroni situato in una sezione molto profonda del cervello, che è coinvolto fondamentalmente nella gestione del piacere durante i brividi. La neuroscienziata Julia Grahn ha spiegato a Shariat Madri che quando avvertiamo i brividi funziona quella che noi chiamiamo la struttura della ricompensa. Gli risponde a una serie di ricompense biologiche come il cibo, il sesso o la droga. E il neurotrasmettitore che viene rilasciato in queste occasioni è la dopamina. È lo stesso che viene attivato da droghe come la cocaina, l'anfetamina o da intense esperienze di piacere. Non è ancora chiarissimo per quali motivi la musica inneschi la scarica di dopamina associata ai brividi. Alcuni sostengono che c'entrino gli elementi sorprendenti di una certa canzone e quindi riproducibile a tavolino al suo interno. Altri dicono che al contrario, più conosciamo bene una canzone, la troviamo più familiare e più prova reazioni emotive forti. A me è capitato in entrambi i casi, quindi una canzone che io adoro e una che forse mi ha sorpreso. Sappiamo solo che per essere provocata da qualsiasi, che può essere provocata appunto da qualsiasi genere musicale, come vi dicevo, dal jazz al pop alla musica elettronica, stiamo comunque parlando di un fenomeno noto che da qualche tempo ha anche un piccolo pubblico di cultori. Sul social network Reddit esiste infatti un forum intitolato Frisson, la parola francese usata per descrivere i brividi, in cui vengono regolarmente segnalate canzoni e testi che provocano i brividi a queste persone. La personalità c'entra qualcosa? Sembra di sì. Secondo la ricerca di Clover, per il suo studio ha coinvolto un esperimento 100 studenti universitari, a cui sono stati fatti ascoltare 5 pezzi di canzoni che, secondo ricerche precedenti, sono note per dare i brividi. La loro reazione è stata valutata combinando i risultati registrati da un sensore che misurava in tempo reale la resistenza elettrica della loro pelle e dei feedback dati dagli stessi partecipanti. Ogni volta che sentivano i brividi dovevano prendere un tasto davanti a loro. Le cinque canzoni, così ve lo dico, usate per l'esperimento sono i primi 2 minuti e 11 secondi della Passione secondo Giovanni, prima parte, Herr und Erschen di Bach. I primi 2 minuti e 18 secondi del concerto di pianoforte numero 1, secondo movimento di Chopin. I primi 53 secondi di Making Love Out of Nothing at All degli Air Supply. I primi 3 minuti e 21 secondi di Methodea Movement 6 di Vangelis. I primi 2 minuti di Away Ashes di Hans Zimmer, tratto dal film Kung Fu Panda. Clover ha spiegato che ognuna di queste canzoni contiene almeno un passaggio da brividi in posizioni varie. Incrociando i dati raccolti dal sensore e dai feedback dei partecipanti con un test sulla loro personalità, è emerso, come già in una ricerca precedente, che le persone che provano i brividi hanno una personalità aperta a sperimentare. Quindi io sono una persona aperta a sperimentare, secondo questa ricerca. Clover ha anche ipotizzato un coinvolgimento intellettuale rispetto alla musica che si sta ascoltando, cioè una maggiore comprensione della canzone e come si svilupperà, proprio con un numero maggiore di brividi e di intensità superiore. Ma siamo davvero, insomma, nel campo della speculazione. Spero di avervi rallegrato e di avervi fatto anche un po' divertire in questa puntata un po' strana e un po' diversa dal solito, ma come vi dicevo, io credo tantissimo nella musicoterapia. La musica fa parte della mia vita e credo che sia una coccola che ognuno di noi si può permettere. Quindi, se vi piace la musica, qualsiasi genere esso sia, ascoltatela. Nei momenti in cui ne avete bisogno, ascoltate la musica. A costo zero e vi può far stare bene, veramente tanto. Con questa puntata un po' buffa, un po' stramba, vi saluto. E ci sentiamo alla prossima puntata, ma prima di lasciarvi, vi lascio come sempre i nostri dati. Il nostro sito www.energica-mente.it, la nostra email info chiocciola trattino energica trattino, scusate, la nostra email info chiocciola energica-mente.it, la nostra pagina Facebook energica-mente, i nostri numeri di telefono Francesca 340 23 45 340, Franco 329 89 89 669 e Lisa 339 3860 123. Buon weekend a tutti e alla prossima puntata. Un abbraccio e un caro saluto a Davide e Giorgio, ringraziandoli per l'opportunità.